Storie italiane. A che cosa serve? C'era una volta, in una piccola città della Germania, una famiglia di 7 figli che vivevano con i loro genitori. La famiglia non era molto benestante. Il padre lavorava all'ufficio postale e guadagnava molto poco. La madre, invece, proveniva da una famiglia ricca e risparmiava saggiamente. Era gentile e si prendeva cura dei suoi figli molto bene. L'unico problema? Era molto avara. Semplicemente non vedeva la necessità di acquistare qualcosa se non era utile e aveva preso l'abitudine di chiedere: a che cosa serve? La settima bambina, la più piccola, Hansi, era una bambina molto dolce e adorabile. Adorava giocare e ballare in giro, ma i modi di sua madre la rendevano sempre triste. Tutti i bambini della famiglia erano cresciuti credendo che le cose potessero essere solo utili. Tutti tranne Hansi. Presto era tempo di Natale e tutti i bambini erano molto emozionati. Queste torte avranno un sapore incredibile! Mamma, facciamo anche una torta al cioccolato, vero? Calze per Jamie, una nuova giacca per la scuola per Ellen. Perfetto, tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno. Sono davvero contentissima per l'albero di Natale, luminoso e bello! Sentendo questo, i bambini divennero ancora più felici. Madre, madre, quando ci porterai l'albero di Natale? Cosa? Quest'anno ho pensato... non c'è davvero necessità di un albero di Natale, sapete? Quindi non ne avremo uno. Cosa significa? Cara, non puoi essere così avara. Compreremo sicuramente un albero e questo è quanto. Uscì lasciando la moglie molto seccata. Può essere Natale senza un albero? Pensava ancora di avere ragione e decise che non avrebbe comprato un albero. Suo marito, però, pensava che stesse scherzando. Sicuramente non poteva essere così dura. Così sorrise, sapendo che avrebbe preso l'albero. Ai bambini, invece, si spezzò il cuore per questa notizia. Anzi, fu la più triste. Nei giorni successivi, divennero sempre più cupi e infelici perché il Natale si avvicinava. Il padre era troppo occupato per accorgersene, ma la loro madre se ne accorse e iniziò a sentirsi in colpa. Dovrei davvero prendere l'albero? No, non serve proprio a niente. E in questo modo se ne convinse e non pensò più all'albero. Il giorno prima di Natale, Hansi era molto infelice. Stava tornando da scuola e non vedeva l'ora di vedere un delizioso albero di Natale pieno di splendide luci e addobbi. Non è giusto! Bene, se la mamma non prende l'albero, allora lo farò io. E invece di andare a casa, andò nel bosco, determinata a prendere l'albero più bello mai esistito. Presto arrivò e iniziò a cercare un albero. Vide un albero che era caduto e cercò di prenderlo. Ma era troppo piccola per prendere l'albero enorme. Oh, cielo! Questo albero sembra davvero perfetto per noi. Vorrei che qualcuno potesse aiutarmi. Proprio in quel momento, un enorme scoiattolo uscì da un buco nell'albero. Guardò Hansi, che era sorpresa, saltò verso di lei. Ciao, signor scoiattolo! Oh! Lo scoiattolo saltò e le offrì una noce. Quella è per me? Beh, grazie! Oh! Lo scoiattolo iniziò a ridere. E anche Hansi. Oh, scoiattolo birichino! Ascolta, potresti trovare qualcuno che mi aiuti a trasportare questo albero? Lo scoiattolo la guardò e scosse la testa. Oh, per favore! Sono sicura che sei un simpatico scoiattolo, vero? Lo scoiattolo scosse la coda e sorrise. Si fermò in piedi sulle sue due gambe e chiamò ad alta voce. Oh, perché stai facendo quel suono? Ci stava chiamando! Noi! Noi! Hansi era così felice di vedere così tanti gnomi. Si chiese se lo scoiattolo li avesse chiamati per aiutarla a trasportare l'albero. Bene, spero che tu abbia delle belle decorazioni da appendere a questo albero. Oh no! Quelle che avevamo sono rotte e la mamma non ne ha comprate di nuove. Che vergogna! Bene, così non va, non è vero? No, proprio non va. Facciamone qualcuna. Scoiattolo, ci aiuteresti anche tu? Così Anzi osservò gli gnomi e lo scoiattolo raccogliere le ghiande, le pigne e le bacche dai boschi. Misero delle corde alle loro estremità in modo da poterle appendere all'albero. Ora portiamo tutto questo a casa tua, vero? Hup hup! Anzi sorrise per tutto questo, camminò felicemente al fianco degli gnomi mentre trasportavano facilmente il pesante albero sulle loro schiene. Anzi, tu sei la settima figlia e vivi nella settima strada, giusto? Oh, come fai a saperlo? Sappiamo tutto. Sappiamo anche che il numero 7 è fortunato. Quindi questo ti rende una bambina molto fortunata. Sai quanto fa 7 per 7? Non lo so. So solo che 7 per 2 fa 14. Ma che cos'è? Non l'abbiamo ancora imparato a scuola. 7 per 7 fa 49. Ricordalo perché è molto fortunato. Nel frattempo la madre di Anzi era estremamente preoccupata. Era quasi buio e Anzi non era ancora tornata a casa. Oh, di solito va a casa dei suoi amici. Che sciocca che sono. Immagino che tornerà presto. Anzi stava saltellando allegramente mentre loro camminavano trasportando l'albero attraverso la foresta. Tutti i piccoli animali della foresta guardavano fuori dalle loro tane nascosti per salutarli. Oh, carino! Ciao ciao, coniglietto! Presto raggiunsero la sua casa e ormai era sera. Stava anche iniziando a nevicare. Bene, iniziamo a decorare l'albero, vero? E come decorarono l'albero? Lo scoiattolo saltò da un ramo all'altro appendendo le pigne e le ghiande. Gli gnomi presero le bacche e magicamente le trasformarono in bellissime candele rosso brillante. L'albero è davvero adorabile. E infatti lo era. Gli gnomi e lo scoiattolo avevano fatto un ottimo lavoro e l'albero ora era fantastico. Bene, ora dobbiamo tornare a casa nostra. Oh, dovete? Presto sarà Natale e vogliamo stare con le nostre famiglie. Bene, ciao Anzi. Spero di rivederti un giorno. Quella notte la famiglia aspettò che il padre tornasse a casa. I bambini erano molto infelici perché l'albero non c'era e la loro madre era triste nel vederli infelici. Sono a casa, mia cara famiglia. Perché siete tutti così infelici, tranne Anzi? Oh, tesoro, riguardo all'albero di Natale. La madre fu sopraffatta dal senso di colpa dopo aver visto i suoi figli così tristi e così scoppiò in lacrime. Oh, mi dispiace così tanto. Non ho preso l'albero perché pensavo che sarebbe stato inutile. Sono così dispiaciuta. Di cosa stai parlando? Ho visto il delizioso albero fuori. Oh, questa doveva essere una sorpresa. Molto strana, però. Tutti si guardarono l'un l'altro e corsero fuori. Rimasero così stupiti nel vedere l'albero magico. Le pigne erano diventate d'argento e le ghiande si erano trasformate in piccole campanelle d'oro. Le candele ardevano e c'era una piccola stella dorata che brillava sulla punta. Beh, questo è davvero il Natale più meraviglioso di sempre, non è vero? Sì! Yeah! Sì! Sì, lo è. Ah. La madre non sapeva come l'albero fosse arrivato lì, ma era grata per il miracolo di Natale. Guardando i volti felici del marito e dei figli, si rese conto dell'errore che aveva fatto e promise che non sarebbe mai stata più avara. Il giorno dopo, Hansi raccontò a tutti i suoi fratelli e sorelle degli gnomi e dello scoiattolo. Così andarono nel bosco con una grande torta per ringraziarli. Ma come facciamo a chiamarli? Oh, mi hanno insegnato qualcosa che sarebbe stato fortunato. Forse se lo diciamo insieme usciranno. Era 7 per 7 fa 49. I bambini erano confusi, ma lo dissero comunque. Continuarono e continuarono a dirlo. E gli gnomi e lo scoiattolo uscirono. I bambini diedero loro molto felicemente la torta, ringraziando gli gnomi e lo scoiattolo birichino. I bambini tornarono a casa e la madre abbracciò tutti i suoi figli. Aveva capito che non c'è gioia più grande che vedere la sua famiglia felice. Dopotutto, il Natale è fatto per passare del tempo con la famiglia, condividere e prendersi cura degli altri. Dopotutto, lo scoiattolo ha dato una lezione alla madre.